la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:10 primi e 10 secondi, in questo mercoledì 8 di novembre, in diretta da Milano, piovosa. Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto, come sempre, Oscar Giannino, e vi dice subito di che cosa parliamo oggi. Parliamo di una serie di dati che il Sole 24 Ore ha pubblicato domenica scorsa, erano le pagine 2-3 del Sole 24 Ore, in cui si mettono in ordine di, tra virgolette, efficienza tutti i capoluoghi italiani, quindi i grandi comuni capoluogo italiani, e lì si misura sulla loro efficienza, cioè capacità di riscuotere tre diverse classi di risorse proprie, quindi importantissime per i bilanci dei comuni, che come sapete in questi anni hanno subito, ne abbiamo spesso più volte visto e quantificato, tagli per via del compatibilità di finanza pubblica, verso le quali spesso ci siamo occupati. Abbiamo sentito sindaci di grandi città dell'ANCI, a ogni legge di bilancio si reimposta un confronto diretto con il governo per verificare quanto se ne può recuperare, ma insomma i tagli ci sono stati, quindi a maggior ragione le risorse proprie diventa importante portarle a casa tutti, perché altrimenti il bilancio diventa ancora più magro dei comuni. Ecco, allora, in tre classi di risorse proprie, quali sono? La prima è quella dei tributi, i tributi dovuti ai comuni, no? E, dalle sovraliquote e così via. La seconda è quella delle tariffe, occupazione nel luogo pubblico, per i locali commerciali e così via. La terza, le multe, quindi tributi, tariffe e multe. E il Sole 24 Ore che cosa ha fatto? È andato a spulciarsi in ognuna di queste tre classi di cespiti per i bilanci dei diversi comuni la capacità di riscuoterli davvero rispetto all'accertato. Ecco, la capacità di riscuoterli davvero rispetto all'accertato. E l'effetto, la fotografia che si ricava è quella di una Italia in cui la forbice dell'efficienza delle amministrazioni comunali è enormemente più ampia di quanto non sarebbe disposto a credere, per così dire. Tra l'altro coincide solo in maniera molto approssimativa, tanto da non rendere utile l'utilizzo del nord contro il sud, per essere chiari. Adesso io vi do qualche dato prima di approfondire la cosa con gli ospiti. Quello che mi interesserebbe però dirvi subito è, se volete, 800240024, telefonarci da alcuni dei comuni delle grandi città in cui, e come vedrete dai numeri che adesso andrò a esemplificarvi, la capacità è più bassa di riscuotere. Per esempio Napoli è così, Palermo è così, per essere chiari, anche Roma è così, sia pure in modalità diverse. Ecco, se siete in queste grandi città in cui adesso vi dirò i numeri di quanto bassa è la capacità di riscuotere da parte del comune, io sarei interessato a capire la vostra opinione personale. Primo, se vi tornano i numeri che ascolterete, ma secondo, se pensate che sia dovuto a che cosa? Scarsa quantità di personale, in molti casi non mi parrebbe, oppure scarsa competenza del personale in queste materie da parte delle amministrazioni comunali, oppure mancanze organizzative proprio, oppure semplicemente volontà deliberata, per così dire, perché si può anche immaginare questo, io non è che lo escluda. Cioè, per arrivare a percentuali così basse vedrete che qualche dubbio deve per forza venirci, e dobbiamo capire a che cosa si deve, visto che magari nella stessa regione a qualche decina, no, al massimo a qualche centinaio di chilometri di distanza ci sono capoluoghi che hanno capacità nello stesso mezzogiorno o nel centro Italia di avere un'efficienza di gran lunga maggiore. Ecco, allora mi interesserebbe davvero capire se siete contenti o meno di come il comune si comporta nei vostri confronti sotto questo particolare punto di vista. Quindi mi interessa soprattutto poi se si tratta di occupazione in luogo pubblico, qualcuno che abbia un esercizio commerciale, un bar, un ristorante e così via, ma come vedete riguarda tutti i cittadini, perché poi le multe ci vanno di mezzo. Allora io vi faccio un po' di esempi per ciascuna di queste tre classi e poi iniziamo a parlarne con il primo dei nostri dei nostri ospiti. Se cominciamo con i tributi, per esempio, ecco, il comune di Trento è in testa alla graduatoria, cioè il comune di Trento porta a casa, rispetto ai tributi accertati, il 99,5%, praticamente pressoché integrale. E dopodiché vi dico i primi nell'ordine di, tra virgolette, efficacia, perché sotto Trento e comunque sopra il 90% ci sono Mantova, Genova, Bolzano, poi tra il 90% e l'80% ci sono già un buon numero di comuni, tuttavia, pur tuttavia, l'80% è considerata la fascia di chi è efficace e fino all'80%... c'è più di un terzo dei comuni capoluoghi, oltre 100 comuni capoluoghi, perché a quel punto si va da Lecco, l'88%, Piacenza l'87%, Udine l'87%, Verona l'86%, scendendo Parma l'85%, come vedete molto nord, sui tributi molto nord, Trieste, Sondrio, però compare Foggia l'84,4% a un certo punto, quindi nella fascia comunque dell'eccellenza. Poi scendendo Reggio Emilia, Padova, però compare Ragusa in Sicilia all'83,9%. Poi si scende Cuneo, Belluno, Asti, Verbania, Como, Teramo, Massa, Fermo, quindi nelle Marche, Ferrara, Oristano l'81,1%, Arezzo, Savona, Bologna, Bergamo, Lecce all'80%. Poi c'è la vasta fascia intermedia che va da Pesaro, che sta al 79,8% e arriva fino a Cagliari, che sta al 70,2%. Anche qui molto centro Italia, Emilia, chi restava fuori della Lombardia, però c'è un campo basso rispettabilissimo al 77,3%. E andiamo alla fascia bassa. La fascia bassa, un po' meno di un terzo del totale, che parte da Potenza con 69,7%, Siena sta nella fascia bassa, perché sta nel 69,4%, però poi si inizia rapidamente a cadere, perché Roma è al 65,3%. 65,3%, capite bene che rispetto a Trento stiamo parlando di un terzo in meno di capacità di riscuotere i tributi. Dopodiché, se scendiamo, Enna in Sicilia il 64%, la domanda diventa: perché Enna il 64% mentre invece Ragusa è all'83,9%? Non è che vale quindi il sud in quanto tale o la regione Sicilia in quanto tale. Catania 63%, Salerno il 62%, scendiamo, andiamo sotto il 60%, dove poco sopra c'è Agrigento, Siracusa al 60%, poi scendiamo ancora, Vicenza è Veneto, è nord, eppure sta al 57,4%, Palermo 57,1%, Napoli il 57%, Reggio Calabria 56%, Matera il 51%, Avellino il 46,6%. Capite che è la metà di rispetto a Trento. Questo riguarda i tributi. Andiamo alle tariffe, non la farò altrettanto lunga. Per le tariffe, in testa a tutti c'è, sorpresa, Enna, che ha il 97,7, quindi Sicilia. Enna che sta sopra Treviso, c'è anche Agrigento che sta al 93 rotti insieme a Sondrio, c'è Lecce che anche qua è sopra il 90%, poi c'è un bel po' di nord. Sulle tariffe c'è anche Palermo nella fascia alta. Se andiamo nella fascia bassa invece abbiamo dei risultati con Reggio Calabria il 9%, cioè Reggio Calabria riesce a incassare il 9,5% del totale delle tariffe, 9,5% rispetto a Enna che sta a 87,7, per essere chiari. Abbiamo detto Reggio Calabria 9,5%, Isernia al 21,6%, Trapani il 17,5%, Napoli il 34,1%, è bassa quindi come i tributi, capite? E così via. Ma ci sono anche, sia pure oltre il 50%, pezzi di nord come Brescia e Piacenza. Però se ci fermiamo a Napoli al 34%, Vibo Valentia al 27%, Cosenza al 22%, Trapani al 17% e Catanzaro e Reggio Calabria sotto il 10%, capite bene che qua ci sono dei disastri, ma anche qui non si spiegano solo con nord e sud. Andiamo alle multe, che ovviamente colpiscono tutti. Qui sulle multe praticamente quelli che stanno in fascia bassa sotto il 50% sono la metà dei comuni italiani, E quindi qualche cosa in questo c'è da riflettere, troppe multe probabilmente rispetto agli organici dedicati per il recupero, questo forse è probabile, però insomma, allora, mentre Forlì, Brindisi e Massa sono a oltre il 95%, nella fascia rossa si arriva fino allo 0,6% di Isernia, l'11% di Agrigento, il 17% di Palermo, che come vedete sta nella fascia bassissima per tutte e tre le classi di risorse, il 19% di Napoli, solo il 19%. A Roma non andiamo molto meglio, è solo il 25%, per essere chiari. Voi capite che il 25% significa che c'è in tre casi su quattro. Beccarsi una multa a Roma significa avere una certa garanzia a tavolino che tre casi su quattro non la si paga perché non arrivano a fare la riscossione. Mentre invece capite bene che a Parma, dove è il 70%, questo conto non è un conto di utilità marginale da farsi. Allora, questi dati solo per fare capire di che cosa parliamo? Allora, con il nostro primo ospite, il professor Raffaello Lupi, che insegna diritto tributario alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma, Tor Vergata, la domanda è: lei, questa forbice di questo coefficiente di dispersione così elevato, che non corrisponde neanche a nord e sud, come se lo spiega? Cioè, che cos'è che porta a queste 100 Italie diverse? Probabilmente anche il criterio con cui si costruisce il denominatore, cioè il numeratore è il riscosso. Che cosa ci si mette nel riscuotibile? Per esempio, per i tributi che vanno in autotassazione, l'IMU, le addizionali, cioè io riscuoto il 90%. 8% a Trento, riscuoto il 98% di cosa? Di una previsione di quello che dovrei riscuotere se, visto il tessuto produttivo e la massa dei dati macroeconomici della regione. Per cui basta diminuire il denominatore e diventiamo più efficienti, cioè nella stima di quanto dovrei incassare, io abbasso il parametro di confronto, dico che dovrei incassare meno, automaticamente ho incassato di più perché mentre si parlava prima certe difformità percentuali non me le. Infatti io so di sicuro che si fa così per i tributi sulla casa, perché il Ministero dell'Economia ha un gettito teorico di ogni comune. Dice, da questo comune, siccome una parte dell'IMU compete allo Stato, il Ministero dell'Economia pensa che nel comune di Rocca Cannuccia si debba incassare. Cioè, quindi probabilmente se la stima del comune di Rocca Cannuccia è risicata, il comune di Rocca Cannuccia risulta molto efficiente. Qualcun altro ha una stima molto generosa e risulta inefficiente. Può essere su come si fa il confronto, come in molti casi, diciamo così, di fact checking, no? Come diciamo su. Per le multe invece bisogna vedere cosa ci si mette, perché per le multe ci si mettono ovviamente i verbali. Cioè, io faccio 1 milione di euro di verbali, quanto incasso? Allora qui è più effettivo su effettivo. E quindi qui infatti i E dati infatti i dati ci dicono che sono sono molto inferiori. Cioè Quindi si recupera molto meno dalle multe rispetto che dalle non imposte c'è dubbio, locali. non c'è dubbio. E qui perché è un problema di frammentazione, cioè il costo fisso di una notifica in termini di ore uomo, tempi, raccomandata, lavorazione, è sempre quello. Anche magari se la multa è di un divieto di sosta da 60 euro, quindi si sente l'effetto della frammentazione. E bisognerebbe avvicinare per quanto possibile la riscossione, dare più possibile la riscossione all'ufficio accertatore. L'idea che ti faccio la notifica a casa, già quando si dice sì, me la mandi a casa, praticamente un terzo te lo sei già perduto. Poi non ti trovano quelli delle poste, devono ripetere la notifica, dopo 4 anni ti arriva qualche cosa che hai cambiato casa, cioè inizia una burocrazia delle notifiche che porta alla dispersione, poi non si possono fare pignoramenti per pochi soldi, la gente si butta a non pagare, si fanno le rottamazioni dei ruoli, quindi c'è un effetto molto negativo della frammentazione della riscossione. E poi bisogna considerare come consideriamo la base di commisurazione di questa efficienza o inefficienza. Ma per essere, per spiegare a chi è a casa, la soluzione a il fatto che oltre la metà dei comuni italiani sta sotto il 50% del riscosso sull'accertato delle multe, è una soluzione che avrebbe bisogno di un intervento, tra virgolette, centrale o locale nelle norme e nell'organizzazione? Allora, è un problema organizzativo, come si diceva prima, non c'entra la pigrizia, volontà politica, è una questione organizzativa, perché noi italiani siamo con grande iniziativa individuale, siamo tutti spontaneisti, però abbiamo tutti le nostre idee su organizzare gli uffici, cioè abbiamo tutti l'idea geniale che farà funzionare meglio la baracca, quindi alla fine la baracca non funziona per eccesso di idee geniali anche all'interno degli uffici pubblici e poi anche all'interno di idee legittime, dice dobbiamo fare questo perché ce lo impone questa legge, il collega dice no ma quest'altra legge ci impone quest'altra cosa, ognuno porta una legge che alla fine paralizza tutto e bisognerebbe recuperare l'idea di organizzazione efficiente, quindi magari dire noi una quota dei trasferimenti statali te li diamo anche in relazione all'efficienza che tu dimostri nel recupero dei tuoi tributi, nel recupero delle tue tariffe, perché è solo una questione di organizzazione, non è che l'organizzazione si fa per legge. Articolo 1, da domani il comune di Vattelapesca sarà organizzatissimo. L'organizzazione la devi costruire in concreto, per cui si può cercare di premiare l'organizzazione efficiente. Ma oggi come oggi, nell'attuale configurazione tecnologica e della condivisione dei dati dell'apparato tributario nazionale, quindi per dirla con un acronimo di una società pubblica che poi gestisce queste cose per il fisco, SOGEI per capirci, un comune ha accesso all'anagrafe unica tributaria dei dati o no? Allora, credo che lo debba chiedere. Cioè non ha l'accesso online, credo, però posso sbagliarmi, cioè il comune può chiedere i dati di Pinco Pallino, ma andare a consultare in via permanente credo che non sia questa mettere, sono dati delicati, cioè no, lo capisco, era solo per dare la nostra. Quindi, allora intanto grazie al professor Raffaele Lupi, vediamo perché io lo ringrazio di essere stato disponibile, abbiamo con noi l'assessore al bilancio del comune di Napoli di cui vi ricordo nella graduatoria comparsa sul Sole la collocazione di Napoli nelle 3 diverse classi di cespiti, tributi, tariffe e multe. Napoli è sui tributi al quintultimo posto, perché rispetto all'accertato, anzi 1, 2, 3, 4, sì, al quintultimo posto, anzi al quartultimo, perché sul totale dell'accertato incassa il 57% dei tributi. Per quello che riguarda le tariffe è un po' più su, ma insomma è sempre al nono posto verso il fondo, però, e ne incassa il 34, poco più del 34% delle tariffe. Idem dicasi nella parte bassa, molto bassa la classifica per le multe, e siamo al 19,7%. Grazie assessore Pannini di essere con noi oggi pomeriggio. Buonasera, grazie a lei. E naturalmente lei non è arrivato, ha trovato questa situazione, quindi non è che l'ha creata lei o la giunta a cui appartiene, ma come si fronteggia una situazione di questo tipo? Guardi, a mio avviso in tre modi. Il primo, ridando efficienza alla macchina comunale. Sono molto d'accordo con chi mi ha preceduto. In realtà molti comuni hanno una inefficienza di fatto su questo tema, abituati per decenni a un flusso di risorse costanti dallo Stato al singolo territorio, disabituati a fare della riscossione, del contrasto all'evasione, uno dei temi con i quali misurarsi, anzi, il tema dal quale trarre buona parte delle risorse che poi sostengono le diverse spese che vengono messe a bilancio. Noi da questo punto di vista in questi mesi stiamo rivisitando tutta l'organizzazione del lavoro, le consuetudini, le pratiche per rendere efficiente questa macchina. Secondo, una volta che si esce dal comune c'è davvero un mondo che è fatto di due tipologie. Mediamente chi ha risorse evade in modo consistente o non paga e spesso ha un sistema strutturato che lo sostiene. Abbiamo poi decine di persone... Aspetti, quando dice un sistema strutturato, per far capire? Strutturato significa che aspetto l'ultimo momento per ricevere l'ingiusto di pagamento poi la impugno e poi dopo vado a Equitalia e poi dopo cambio denominazione, chiudo l'attività, ne apro un'altra. Le faccio un esempio, il magazzino di Equitalia Napoli ha, credo al 2014, ereditato 2 miliardi e rotti di riscossione coattiva. In realtà ad oggi noi abbiamo un'attesa relativa a 700 milioni, cioè nel frattempo, a parte purtroppo decessi, ma cambi di denominazione, chiusura di aziende, aperture di altre, cioè abbiamo un tema particolarmente consistente, ma dedicherò a ciò gli ultimi tre minuti. Dicevo, abbiamo, rispetto ai grandi debitori, grandi evasori, questo sistema ormai strutturato, noi dalla nostra anagrafe lo vediamo benissimo. E una parte di questo sistema, ai noi, è il pubblico su pubblico che scarica le difficoltà di bilancio non pagando i relativi tra cugini di famiglia, la tua partecipata, il comune che hai a fianco dove magari hai una proprietà, una cosa, un'altra. Poi c'è il tema di centinaia di persone che sono evasori o debitori incolpevoli. Come c'è la morosità incolpevole, c'è anche una incolpevolezza nel non pagare un tributo. Qui a Napoli c'è un'espressione, chi non mette il piatto a tavola. Dietro non c'è l'evasione classica di chi nasconde il reddito. Dietro né di chi nasconde, né di chi ha una metodologia strutturata, magari potendo pagare. Su questo esisteva uno strumento, il baratto amministrativo, che io devo dirle, trovo di grande dignità per le persone, che ai noi con due sentenze della Corte dei Conti, caduto. Emilia e Lombardia, di fatto si è ridotto ad un lumicino. Terza ed ultima questione, ha ragione di nuovo il docente universitario professor che mi Lupi, ha preceduto. Guardi, c'è una faraginosità delle norme che fa paura, per cui anche sulle multe tu non riesci a intervenire, ci sono alcune persone che fanno infrazioni in modo seriale, 300, 400, 500, 600 multe in un anno, ma il fermo amministrativo, il fermo dell'auto, in altri versanti il blocco dei conti correnti, sono strumenti che per metterli in atto implicano un passaggio di anni, per cui da un lato hai l'imperativo morale riscossione, contrasto all'evasione, dall'altro tu sostieni questa battaglia se ti va bene con una fionda. Chiedo scusa, sono un pacifista come lei. No, come no, tutti. Ma si figuri, certo. Quindi è davvero il sentirsi con le mani legate. In questo c'è un'attività, io credo che andrebbe completamente ripensata. L'attuale sistema ci mette in forte difficoltà. Noi abbiamo deciso su questo di attivare, voglio dire, un monitoraggio preciso per cui già adesso stiamo riscontrando rispetto alla Tari, rispetto all'IMU, in parte anche rispetto alle multe, un miglioramento o consistente o leggero, sto parlando delle multe, abbiamo molta strada da fare su questo versante, per esempio una discriminazione positiva dell'accredito delle risorse Sono molto d'accordo. Qui bisogna incoraggiare, incoraggiare il delta di miglioramento. Certo. Questo è il punto, perché altrimenti il delta di miglioramento, non la posizione nella graduatoria assoluta, perché la posizione nella graduatoria assoluta significa premiare chi è già bravissimo e c'è poco da premiare, lì c'è da dire complimenti, avete le risorse. E il delta di miglioramento di chi sta a percentuali bassissime, quello che serve incoraggiare dal centro. Questo mi trovo molto molto molto d'accordo. Comunque io ringrazio Enrico Panini perché vi ha dato risposte concrete, come vedete non si è tirato indietro. Io gli do la mia solidarietà personale, perché credo che sia chi si trova in comuni come Napoli a fare il mestiere che fa, bilancio, entrate, uscite, l'assessore Panini, vi posso garantire, ho l'idea che è una delle cose più difficili in Italia. Napoli, Palermo, Roma, ma Napoli e Roma peggio di Palermo, se posso dire. Sono persone che io apprezzo molto, perché ci vuole un animo d'acciaio con le idee molto chiare. E io prescindo dalla politica, non sto dicendo viva il colore della giunta politica, dico che lì purtroppo la condizione è stata fatta degradare per decenni. Grazie a Panini, noi abbiamo la borsa e la pubblicità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci qua in diretta di nuovo. Abbiamo visto le graduatorie della efficienza o inefficienza su tributi, tariffe e multe, sulla riscossione dei comuni. Due rapide osservazioni a due famiglie, sottofamiglie di SMS che arrivano. Il nord è più civile, il sud meno. E no, perché come vi ho detto, nella parte bassa dell'efficienza ci sono capoluoghi del nord in tutti e tre i casi. Quindi non, la spiegazione antropologica, per così dire, non è la buona risposta, perché evidentemente le questioni sono a diversi livelli organizzativi. Secondo, ha ragione chi ha capito al volo la pronunzia, che Enrico Panini non è napoletano, sì, veniva da Bologna, infatti l'hanno preso da fuori, però è così. Questo molti avevano detto, ma non è napoletano. No, non è napoletano. Detto questo, sentiamo rapidamente alcune delle vostre telefonate da chi ha chiamato. Scegliete la centralina, non da me, ogni volta voi pensate che no, però detto tutto questo, e poi abbiamo invece nella parte finale della trasmissione abbiamo l'assessore bilancio comune di Firenze, che come vedrete invece sta nella parte alta, quindi ci spiega grazie a che cosa. Ma cominciamo con Ettore, che ci chiama da Cremona. Ettore, prego. Sì, buonasera. Eccoci qua. Ma io ascolto sempre in modo appassionato le sue trasmissioni, perché sono ricche di particolari. Però quando parla di efficienza a me viene un nervoso che non le dico, perché se parliamo di efficienza della macchina comunale io continuo a pensare che ci sono dirigenti pagati fior di euro. Da quando c'è la legge Bassanini il dirigente comunale prende come un dirigente privato. Mi ricordo quando ho cominciato a lavorare io all'inizio degli anni 70, tra me che ero un giovane impiegato e il mio direttore c'era il triplo di stipendio. Ora era un bravissimo direttore, ora tra l'ultimo impiegato e dirigente che sta sopra c'è 30-40 volte la differenza di stipendio. Ma dico, ma non pagano mai queste persone che di fatto non producono efficienza? Questa è un'ottima osservazione, cioè non bisognerebbe fare una valutazione di merito dei dirigenti, cioè di chi è responsabile dell'organizzazione dei servizi, non dei dipendenti in questo caso, parametrata a queste percentuali? La mia risposta è sì. Ce ne abbiamo fatto una mezza promessa con la riforma Madia e poi è saltato. Quindi sono completamente d'accordo con quello che ci dice Ettore, a maggior ragione perché dopo la legge Bassanini, poi voi lo sapete, c'è stata una specie di parificazione normativa del contratto dirigenza pubblica con quello privato. Però a maggior ragione io farei dipendere una parte molto alta della retribuzione dei dirigenti da parametri come questi, quantitativi, misurabili, obiettivi ex ante posti, migliora di tot, e vediamo che cosa sei riuscito poi a migliorare davvero nel tuo contratto a termine. Questi contratti a termine invece per i dirigenti la riforma Madia li ha introdotti davvero. Va. Thomas di Firenze invece. Thomas, prego. Ciao Oscar, buonasera. Brevemente, come già sottolineato dall'ospite vostro in apertura di trasmissione, molti dei problemi, per carità non gli unici, dipendono anche dalla difficoltà normativa per poter procedere alla riscossione. Quindi, da un lato molte persone sanno che sarà difficilissimo andare a riscuotere da loro le somme che non versano. dall'altro i continui condoni, rottamazioni, che permettano di confidare sempre in un intervento futuro che agevola chi non paga, e dall'altro proprio il fatto che procedere alla riscossione coattiva è difficile, richiede competenze. Lo è diventato ancora di più anche per una ragione oggettiva. In questi anni di crisi ovviamente si sono messi dei freni perché c'era il problema di chi aveva perso il reddito, però detto questo in generale resta in Italia una specie di avventurarsi in una giungla, perché la bassa capacità di saper selezionare chi hai di fronte, cioè se qualcuno che sta facendo una strategia ostativa che apre e chiude società in maniera tale che tu resti che devi riscuotere con niente in mano rispetto a chi invece davvero non c'ha i soldi, e in questo lo Stato non è bravo, e non è neanche semplice a dire la verità. Però io sono d'accordo con lei. Io volevo lasciarmi per la fine della trasmissione il mio urlo finale, ma non urlerò, ma lo faccio adesso prima di lanciare invece le strade e poi di passare proprio all'assessore al bilancio del Comune di Firenze. Pensate all'effetto che ha su chi non paga e lo fa apposta l'idea che stanno riaprendo in legge di bilancio per l'anno prossimo il terzo livello della rottamazione delle cartelle, e non lo estendono solo a chi aveva iniziato a versare la prima rata avendo rottamato in questo anno e poi magari si era trovato in difficoltà, no, lo estendono anche a coloro che non avevano mai partecipato fin alla prima rata, poi c'era stata una seconda estensione, si fa la terza riaprendola per tutti. Ma mi spiegate qual è l'incentivo a pagare? E questo è lo stesso Stato che ci fa le prediche sul fatto che noi siamo tutti evasori. Ma dai, cioè, è lui il primo che per sete di entrate rottama le sue norme e i suoi principi e alza il fatto che c'è un premio a chi non paga. Lo capiamo questo, che è lo Stato a farlo, mica Giannino. Intanto strade. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta la versione di Oscar. Ed eccoci tornati qui per la parte finale di questa trasmissione. È con noi l'assessore al bilancio del Comune di Firenze. Grazie di essere con noi, assessor Perra, Lorenzo Perra. Buonasera. Ecco, Firenze, per cari ascoltatori, sta nella parte altissima e alta della graduatoria, perché Firenze, secondo la graduatoria del Sole 24 Ore di domenica, incassa l'89,9% dei tributi accertati, quindi è tra le primissime, addirittura la quinta nella graduatoria, ma comunque va benissimo anche sulle tariffe, perché Firenze incassa il 79% sulle tariffe rispetto all'accertato, ed è nella parte intermedia. Abbiamo visto che sulle multe però oltre la metà stanno nella fascia rossa, che funziona poco, perché incassa solo il 39,1% del riscuote delle accertato sulle multe arretrate. Allora, anche per lei la stessa domanda già fatta all'assessore di Napoli: da cosa dipende questa forbice così elevata all'interno dei comuni, chi è più capace e chi meno? A Firenze che cosa c'è stata? Più manutenzione dell'organizzazione misurata sulle percentuali di riscossione reale avverata, oppure no? Ma secondo me ci sono due elementi che agiscono. Il primo è la condizione economica, una condizione economica in cui è difficile incassare da creditori in generale, sia il settore pubblico che il settore privato, evidentemente può influire in maniera negativa o in maniera positiva, evidentemente. Poi ci sono i comuni che hanno investito molto nell'efficientamento delle entrate. E questo sta diventando sempre più pressante, e quindi ci stanno lavorando sempre di più municipalità da quando esiste il fondo crediti dubbia esigibilità, per cui deve essere accantonato ciò che effettivamente si ritiene di non poter incassare sulla base della media storica dei 5 anni pregressi. Questo sta spingendo tutti i comuni lavorare sull'effettivo incasso. Secondo me è stato anche efficace, mentre altri hanno protestato tanti su questo, il fatto che abbiamo reso con un delta temporale di attuazione abbastanza stretto la convergenza dei criteri di bilancio con cui venivano redatti i bilanci, li abbiamo obbligati a convergere, e questo ha fatto emergere in maniera più netta le diverse efficacie territoriali sulle risorse proprie, e io questo credo che sia stato positivo. Molti comuni hanno detto questo ci ha aggiunto difficoltà rispetto ai tagli dei trasferimenti. Lei che dice? Beh, ci ha aggiunto difficoltà in termini, come dire, assoluti. C'è una riduzione di disponibilità di risorse da destinare alla spesa, però è sacrosanto l'impostazione economica. Non si può spendere ciò che ciò che evidentemente non si ha e di cui non si dispone. Per il Comune di Firenze, io sono arrivato 3 anni fa, c'erano anche eccellenti miei predecessori al bilancio, ma l'incasso era rilevante ma non così determinante. Negli ultimi 3 anni abbiamo ad esempio accelerato i termini dell'incasso, abbiamo anticipato i tempi, le scadenze dei pagamenti. Nella classifica che voi date, che il Sole 24 Ore ha dato, in realtà si tiene conto dell'effettivo incasso nell'anno rispetto alla competenza, quindi non si tiene conto ad esempio del cosiddetto conto incasso residui, ed è per questo che ad esempio noi abbiamo anticipato la scadenza del pagamento della Tari, dei rifiuti, quindi prima coincideva con la fine dell'anno, adesso viene il saldo, se lo si deve pagare entro la fine d'ottobre, quindi non soltanto incassare di più ma anche incassare prima, perché rileva anche il tempo dell'incasso, non soltanto il quanto si riesce effettivamente a incassare. Se lei dovesse dire la stessa domanda che ho fatto al professor Lupi all'inizio, la risposta a chi invece sta in amministrazione comunale nella parte bassissima con percentuali addirittura risibili del recupero delle tariffe e dei tributi, mentre sulle multe c'è un problema di ordine generale diverso, ma quella risposta può venire da impossibili salti organizzativi in unità di breve tempo, perché quei comuni non hanno le risorse per farlo, o ci vorrebbe un incentivo nazionale di premio al miglioramento in breve tempo di queste capacità misurate sulle risorse proprie di riscossione? Ma no, impossibili non credo. Loro dicono nel breve non ci riesco a fare chissà che cosa. Beh, se il breve è un anno sicuramente no, 3 anni secondo me è già un termine adeguato. Si può anche non seguire tutto in casa, ma effettuare delle esternalizzazioni di alcune attività. Molti comuni lo hanno fatto, Bologna lo ha fatto su molti tributi, altri nel passato avevano seguito le strade delle aziende speciali, che secondo me però non è più l'epoca. Esternalizzare è possibile, esistono nel mercato dei soggetti che con il profit sharing in qualche maniera compartecipano al miglioramento delle capacità di incasso, è una strada che può essere seguita. Lavorare tutto internamente con il blocco del turnover, con una secondo me è inefficace, il lungo periodo è molto lungo. No, esattamente, diventa impossibile col miglioramento nel breve dei risultati da ottenere. Allora, grazie anche all'assessore Lorenzo Perra di Firenze. Appuntamento con me e Luca Teresi domani alle 24 mattina alle 8:15 e poi pomeriggio alle 16 come sempre, come oggi, alla versione di Oscar.